237. Costolette nella carta. Queste costolette che i francesi chiamano cotelette en papillote si possono condizionare nella seguente maniera, che è la più semplice da non disprezzarsi. Prendete costolette di vitella di latte, denudate l'osso della costola, levandone la carne, cuocetele nel burro alla sauté e conditele con sale e pepe. Fate un composto proporzionato di prosciutto grasso e magro e prezzemolo. Tritatelo fine, aggiungete burro e midolla di pan grattato per tenerlo unito e con queste spalmate da ambedue le parti le costolette. Poi rifioritele con fettine di tartufi crudi. Tagliate a modello della carta bianca grossettina per quante sono le costolette, ungetela col burro e con l'olio da ambedue le parti, e con essa involtatele strette con l'osso della costola fuori. Ora ponetele in gratella a fuoco leggero, avvertendo che la carta non bruci, e mandatele in tavola per più pulizia, con l'estremità della costola fasciata di carta bianca smerlata. Possono servire a quest'uso anche le costolette d'agnello, se sono grandi.